Beh, anche se probabilmente a questo punto ve le aspettate, non avrete le nostre emissioni da Radio Popolare in cui stiamo benissimo, in cui tutti ci amano, ci vogliono bene, ci rispettano, ci danno le gran pacche sulle spalle e nessuno allude all'opportunità di prenderci una lunga vacanza. Anche perché la nostra cassetta delle lettere, nella quale fino a poco tempo fa prolificavano essenzialmente batteri. Batteri e famiglie di ragni, attualmente è affollatissima. Riceviamo lettere, cassette. Insomma, questa iniziativa della Caccia Vostra ha avuto un successo culturale straordinario.